Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il presunto assassino di Yara è un muratore incensurato di Clusone, abita a Mapello, dove è sposato con tre figli. Avrebbe anche una sorella gemella. Si è risolto nel giro di 24 ore il giallo di Motta Visconti. Ad uccidere Cristina Omes e i suoi due figli Giulia, di quasi 6 anni, e Gabriele, di soli 20 mesi, è stato il papà dei bambini, Carlo Lissi. Non li ha trovati uccisi al rientro dalla partita dell'Italia sabato sera, li ha feriti mortalmente tutti e tre lui stesso prima di uscire con gli amici. La tendenza generalizzata è quella di mettere insieme due delitti, due volti, due uomini, due assassini, schifezze d'uomini, peggio che assassini, oggi titola a piena pagina il giornale. Non sarei del tutto d'accordo. Uno è certo che è l'assassino, l'altro è ancora da vedere. Possibile che la presunzione di innocenza non debba valere nemmeno se è un delitto così efferato. Poi ci stanno bene perché sono due begli uomini, due uomini da lo sguardo apparentemente innocuo, due persone normali che improvvisamente rappresentano il quacervo più schifoso di tutte le bassezze di cui è capace un essere umano, che non competono a noi, non riguardano noi, riguardano con le due persone, e quindi sono messi assieme. Ripeto, l'uno è il presunto assassino di Yara, raggiunto attraverso una complicatissima e difficilissima analisi del DNA di migliaia di persone, che ha portato alla definizione di un figlio naturale non riconosciuto di una donna che ha altri figli. Quindi oggi, come mirabilmente Massimo Gramellini nel suo Buongiorno spiega, c'è una situazione di paradosso. Una moglie si accorge che il marito è probabilmente un assassino, però i nonni non sono i nonni dei suoi nipoti, e via dicendo. Una cosa complicatissima, è tutto da vedere, però ci piace metterli assieme. L'altro è la quintessenza della normalità, un bravo commercialista del nord Italia, tranquillo, che vive nella villetta, una bella moglie. L'unica irregolarità è qualche anno più grande di lei, ma cosa vuol dire? Figuriamoci. Due perfetti ragazzini. È innamorato, invaghito di una collega, come spesso succede negli ambienti di lavoro. Lei non gli ci sta, non vuole. Probabilmente il limite è proprio il fatto che lui sia sposato, e lui capisce che l'unico limite può essere facilmente abbattuto. Fa l'amore l'ultima volta con la moglie, le taglia la gola ai figli, si veste, si lava, va a vedersi la partita dell'Inghilterra, di cui epicamente parliamo già da alcuni giorni. Torna a casa, dà l'allarme. Oggi è chiaro, palese, lampante che sia stato lui. Mi vorrei fermare sull'unico coefficiente che tiene insieme queste due storie nell'immaginario generale, facendo il distinguo. Probabilmente oggi, se il nostro ministro dell'interno non avesse suonato la fanfara e detto a tutti sapremmo qualcosa di più, avremmo più elementi, probabilmente, come dicono i magistrati, sono molto arrabbiati del fatto che questa faccia sia oggi su tutti i giornali. Per loro non doveva ancora esserci, perché non avevano ancora completato tutte le operazioni necessarie alla definizione di certezza di colpevolezza. Comunque, fermiamoci al fatto: siamo tutti assassini? Siamo anche noi potenzialmente capaci di fare strage del genere? O è, come dice il giornale oggi, molto peggio che assassini, schifezze d'uomini? Esiste ogni tanto la natura matrigna che determina che alcune persone vengano direttamente dalle viscere dell'inferno e si manifestano quando ammazzano moglie e bambini. Noi non c'entriamo nulla, noi siamo quelli buoni, siamo quelli che non ammazzerebbero mai nessuno. 800 24 00 24. La scena del crimine, lui e la moglie erano nel salotto, che è immediatamente adiacente all'ingresso, a guardare la televisione. Hanno un momento di intimità. Lui, non ci sono stati litigi, non c'è stato nulla da questo punto di vista che lasciasse presagire, va in cucina, prende uno dei coltelli del set della cucina, ritorna nel salotto e lui da dietro la colpisce dando dei fendenti, prima nelle parti della giugulare del collo, ma anche poi la colpisce sull'addome, anche dietro sul collo. La moglie, per sua stessa ammissione, urla, ovviamente dice no, ma gli chiede anche perché, perché non capisce qual è il motivo. Sa di fatto che prova a reagire, lui la... Professor Vittorino Andreoli, buongiorno. Buongiorno. Professor Andreoli è notissimo, quasi inutile presentarlo, è uno dei più famosi psichiatri, criminologi, ha seguito tutti i delitti apparentemente compiuti da persone diversissime dalla norma e ha sempre detto e definito siamo tutti assassini. È autore di vari libri, molti li abbiamo trattati anche in questa trasmissione, cito L'educazione impossibile, 2014, Rizzoli. Professor Andreoli, anche questa volta ci troviamo di fronte a uno di noi, o sbaglio? No, è proprio così. Vede, la voglia di ammazzare, diceva Freud, che è dentro ciascun uomo, e anzi sosteneva che tutti noi, quindi compreso Sigmund Freud, almeno una volta nella vita avrebbe voluto uccidere. Questa voglia, ma io già però, più di una e ancora sono abbastanza, diciamo, ho ancora da vivere, quindi certo, posso confermarlo. Certo, però allora, però che... Perché poi questo non succede? Perché questa pulsione, che è proprio dell'uomo pulsionale, quello istintuale, quello che sente la rabbia, quello che avrebbe voglia, quello che incontriamo in automobile e che ci manda molte parolacce, insomma, ecco, poi però si frena, ci sono i freni inibitori. Perché la nostra mente è formata di due grandi settori, un settore che chiamiamo razionale, quello dell'intelligenza, così dovrebbe essere, e l'altro invece quello delle pulsioni, delle emozioni, dei sentimenti, e la prima funzione dovrebbe controllare l'altra. Ora, noi ci si trova di fronte, e questo suggeriscono i casi che la cronaca mette in scena in questi giorni, suggerisce che si tratti proprio di un uomo pulsionale, cioè che non riesce a gestire le frustrazioni e che vuole realizzare i propri desideri, pulsioni. Già mi scrive un ascoltatore arrabbiato, ma lo dice lei che sono normali? Su quali basi? Cosa vuol dire normale? Relativismo il mio? No, chi fa giornalismo non approfondisce più. Non dico sono normale, dico ogni persona normale ha in sé potenzialmente il sistema orologeria che potrebbe uccidere chiunque. Poi vedremo nello specifico, faranno delle analisi, studieranno, vedranno se poi, poi normalità. Andreoli, che ecco, vuol dire normale? Posso dire qualcosa a questo proposito? Certamente quello che sappiamo degli ultimi due casi è certamente non sono malati di mente. Su questo non c'è dubbio, e lo dico da psichiatra che per 55 anni fa questo mestiere. Mai uno schizofrenico, mai una persona maniacale, mai si comporterebbe in questo modo, perché la pazzia, la follia, non va intesa come una specie di coacervo in cui ci sta tutto ciò che ci appare non umano. La follia è umanissima, è il tentativo di sopravvivere, di vivere in condizioni molto molto difficili, è una espressione del dolore. E quindi io sono d'accordo che venga detto chiaramente che qui non c'entra la follia, per rispetto a tutti i malati di mente, i quali hanno anche dei principi, allora dei principi che sono diversi da quelli più generali, ma comunque sono uomini. Senta, professore, quanto invece serve, però mi dica una cosa, quanto serve in realtà sentirsi meglio questa mattina a tutta la popolazione, dire peggio che assassini, aver finalmente qualcuno su cui puntare il dito e dire c'è lui, quindi sì, come fosse una spugna, una carta assorbente, il coefficiente di malvagità che si merita l'umanità è tutto in questa persona, io sono fuori. Ecco, questa sua osservazione io la condivido. Vede, a me viene da chiamare queste persone non folli, anche qui per quello che io ne conosco dalle cronache, perché no, non me ne sono occupato, insomma. Ma ecco, direi che sono quasi uomini, ma non uomini folli, quasi uomini. Perché? Perché sono uomini in cui il dominio degli istinti, delle pulsioni, finisce per essere la via maestra del loro comportamento, e la ragione non riesce a fermarli. Perché proviamo a pensare a quello che è successo in quel triplice delitto. uno uccide la moglie, probabilmente almeno 10 minuti ci vogliono per con quel coltello, poi non, in questi 10 minuti non avverte il senso di colpa, cioè quando vede il sangue dire oddio cosa sto facendo, no. Anche questo non è un killer, un killer professionista, non è che la uccide al primo colpo. Sono uomini in cui manca il senso di colpa, mancano i principi, e quindi è vero, noi stiamo andando verso una società pulsionale dove la ragione conta poco, non riesce a frenare i nostri istinti, dove la donna è un oggetto e così via. Sentiamo Massimo. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Guardi, io stamattina non mi sono sentito meglio alla notizia del presunto assassino di Yara, mi sono sentito peggio, perché mi sento come se potessi farlo io una cosa del genere, cioè una persona normale, cioè nel senso non un seriale, non un killer, non una persona, un serial killer. Io mi sono sentito peggio, perché di fronte a una cosa di questo tipo, ho una figlia di 14 anni, capisce bene come uno può sentirsi come padre di fronte a una roba del genere. E io mi sono sentito peggio stamattina, perché dico, potrebbe essere ognuno di noi, una persona normale. Tutto qua. Grazie. Grazie Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Io volevo solamente porre l'attenzione sul fatto di come è stata data la notizia dall'annuncio di Alfano, che mi è sembrato un annuncio di Piazza Venezia, al fatto che comunque la famiglia di questa persona, colpevole o meno che sia, non è stata minimamente tutelata. E questo è veramente, mi dispiace che ancora oggi l'informazione venga, diciamo, usata in maniera così, mi passi il termine, un po' pelosa, ecco. Sì, più che altro tutti ci tenevano a dare la bella notizia, complimentarsi, giustamente, a pieno merito, potendo fare i complimenti fra una settimana, quando il quadro sarebbe stato più chiaro, ma non lo dico io, lo dicono i magistrati, che sono arrabbiatissimi, perché l'avete detto? Dovete darci il tempo comunque di chiudere il giro degli interrogatori, anche perché rimarranno molte situazioni aperte. Comunque il fatto che, ammesso che sia questa persona, la notizia all'interno della famiglia comunque in qualche maniera era stata immaginata, perché la madre del presunto assassino sapeva perfettamente, tanto che gli ha dato il secondo nome del suo padre naturale, di chi si trattasse, e se così stanno le cose ha aspettato parecchi mesi che una persona che poteva aver ucciso Yara potesse continuamente, tranquillamente svolgere la sua funzione di padre. Quindi diventa ancora più complicata la cosa. Melog, cronache meridiane. Massimo Giuseppe Bossetti è questo il nome del presunto assassino di Yara Gambirasio, 43 anni, sposato con 3 figli, 2 femmine e un maschio. Animalista convinto, amante dei suoi cagnolini, dal profilo personale di Facebook di Bossetti emerge la figura di padre di famiglia amorevole e di uomo, dalla battuta pronta, con qualche scivolone nella volgarità delle battute di cattivo gusto. Sarebbe lui, insospettabile muratore a seriate, il killer della giovane Yara. Lui, che vive a Mapello e ha una sorella gemella, sarebbe il figlio segreto illegittimo dell'autista di Gorno, Giuseppe Guerinoni, che seppur deceduto da tempo... Diciamo che c'è materia, comunque sia, comunque vada, qualunque sia il risultato, per fare film, romanzi, racconti. La realtà è molto più frastagliata, interessante, complicata di quella che può essere ogni parte della fantasia. Certo, tutti i luoghi comuni vengono sconfessati, col cagnolino, col gattino, con i figli, una persona per bene, ogni tanto si lascia andare a qualche battuta volgare, esattamente quello che potrebbero dire di me chiunque, ma questo non fa di me comunque un assassino, ma fa di me comunque un potenziale assassino, come lo è qualunque persona cosiddetta normale. Questo perlomeno ci dice il professor Vittorino Andreoli. Intanto sentiamo Mauro. Mauro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, la faccio semplice. La frequentazione sempre più ossessiva della morte attraverso la cronaca, attraverso la fiction, attraverso il cinema, ha privato la morte della connotazione del lutto, e questo consente alla morte di potersi frequentare. Secondo lei è sdrammatizzata la morte, ma io penso che la morte sia scomparsa dal nostro immaginario come evento fatale, ineluttabile, che deve coinvolgerci. Abbiamo delle rappresentazioni della morte che forse ci hanno fatto elaborare per sempre il concetto che possa esistere un lutto. Professore Andreoli, sulla domanda di questo ascoltatore. Ma è una domanda ed è un'osservazione molto giusta, che io condivido in questo momento storico, in questa, chiamiamola, società. Certo, le cose hanno una dimensione molto grande, ma certo la morte è stata uccisa, nel senso paradossale che nessuno vuol sentirne parlare, è diventata semplicemente un elemento, è stata spettacolarizzata. Ed è vero che in un film o nella cronaca cosiddetta centrata sulla morte, tutto viene raccontato come fosse un personaggio quasi mitico, insomma. Noi abbiamo fatto questa trasposizione, noi abbiamo definito la morte come fosse una malattia e quindi abbiamo l'impressione che non abbia più niente di quel mistero, di quel senso del limite dell'uomo, di quegli interrogativi che ci si poneva per dire: ma qual è il significato mio nel mondo? E quindi senza la morte diventa molto più semplice uccidere, perché diventa banale. E uccidere, voglio ricordare ancora, era una caratteristica, era assegnata agli dèi, erano gli dèi che stabilivano la vita o la morte. Oggi invece tutto questo è diventato quasi un gioco, dà fastidio e quindi io uccido. Ripeto ancora, però ricordiamoci che c'è un tema della cultura e dell'uomo cosiddetto consapevole, quello di saper frenare le pulsioni. Tutti noi abbiamo pulsioni, se non vengono frenate, queste possono portare ad ammazzare. Anche perché, professor Andreoli, se non ricordo male, proprio lei mi raccontò questa storia. Uccidere è un evento epico. Lei ha parlato con molti serial killer. Una persona che uccide è come se toccasse a un certo punto un punto inarrivabile anche della propria emotività. Certo, è molto facile che voglia diciamolo chiaro, il serial killer gode, ha un piacere sessuale quando uccide. Certo. Beh, che mi sono occupato, come lei ricorderà forse, del primo caso di pedofilia, il caso Chiatti. Il caso Chiatti è che nell'uccidere, lui mi disse, e nel momento in cui io sopprimevo, e lei sa che le vittime in questo caso erano bambini, era in quel momento che io arrivavo a quello che si chiama l'apice del godimento sessuale. Quindi anche si spiega perché poi continuano a uccidere, perché è la maniera che loro hanno per avere piacere. Questo per far capire bene cosa c'è alla radice, non è per pura morbosità, per far capire cosa accade, cos'è l'atto dell'uccidere. Sì. Anche perché sennò, professore, sembra una cosa indifferente. Allora, questa persona che voleva, amava, si illudeva, era lo stalker di una sua collega, pensava che l'unico ostacolo fosse il matrimonio. La via più breve sarebbe stata, comunque, con tutte le difficoltà che ci sono in Italia, visto che siamo un paese a questo punto di vista molto arretrato, che rendono difficile la fine unione matrimoniale. Ma possibile che la soppressione fisica della propria famiglia sia la via più facile, più breve e mai più indolore per eliminare una famiglia che dà fastidio? La famiglia può essere un peso, ma uno la lascia, se ne va, scappa, prende dei provvedimenti di tipo legale, fugge in Australia. Ma perché uccidere è la prima cosa da fare? Certo, ma guardi, proviamo a immaginarlo, anche qui è un immaginario. Allora, questo signore ha una collega che finisce per veramente attrarlo moltissimo, passionalmente, il sesso, e quindi la segue, finalmente gli dice: ma mettiamoci insieme, sto immaginando, questa non è cronaca giudiziaria, mettiamoci insieme, e quella credo che con buon senso dice: ma non ti vergogni, hai moglie e due figli, insomma, e fai queste, penso che sia una risposta, che questo come viene vissuto nell'uomo pulsionale? Ah, perbacco, ma allora il limite è un po' consapevole, un po' inconsapevole questo che accade. Ah, dice, ma allora in realtà il limite cos'è? Se io non avessi moglie e figli, vuol dire che potrei farti quella proposta e avere una risposta positiva. Conosce pochissimo il mondo, però, conosce pochissimo il mondo e non è un uomo maturo. Certo. Un uomo maturo sa che di fronte alla capacità seduttiva, alla sintonia, ma né un uomo né una donna, certo, non saranno mai nessun problema per famiglie, figli, mogli, che gliene importa. Certo, Ecco, ma per quel maturo, che giustamente, termine che giustamente ha usato, qui va proprio detto che quello è un uomo dominato dagli impulsi. Ecco, un quasi uomo. Insomma, io ho vissuto tra gli scimpanzé molti anni fa. Ebbene, ci sono tanti, anche il codice genetico è molto simile a quello umano, però c'è una differenza, che là, quando si avverte un impulso, una pulsione, la si realizza. L'uomo deve dire no. Questo è l'uomo etico, non nel senso della religione, non nel senso di quale principio, ma è quello che riesce a controllarsi. Questi sono delle persone che hanno proprio sissa l'attività del comprendere, l'intelligenza, che non riesce a dominare in alcuni momenti quella degli affetti e delle emozioni. Allora, riassumo due telefonate che non faccio in tempo a mandare, che mancano 15 secondi. Massiliano dice: il presunto assassino rimane presunto, non ci può essere prova del DNA come prova dell'omicidio. Lecitissimo, giusto, abbiamo detto. Stefano dice: delle coppie che si stanno separando, molto spesso è provato che esista questo impulso di uccidere. Sì, ma per fortuna non tutti si ammazzano. Grazie professor Andrea, a domani.